Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Venezia con Alfredo Colitto. I 270.000 abitanti di Venezia vivono in una laguna che è patrimonio dell'umanità. La città, 118 isolette consolidate grazie a palificazioni in legno, spalma sull'acqua i suoi campi e le sue calli, rispettivamente piazze e strade. Piazza San Marco, l'Arsenale, Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri. Impossibile elencare tutte le bellezze che fanno di Venezia una meta tra le più visitate al mondo. Importanti anche gli eventi culturali come il Carnevale, la Biennale d'Arte ed Architettura e il Festival del Cinema. Un ampio molo di pietra con poche barche alla fonda, due alte colonne e dietro una piazza lastricata con mattoni cotti a spina di pesce. A destra della piazza un palazzo che sembrava uscito dai racconti fiabeschi dei viaggiatori che erano stati in Oriente. «È il Palazzo Ducale», disse la voce di Davide al suo fianco. «Lì vanno ad abitare i dogi dopo essere stati eletti». Mondino annuì con aria assente, gli occhi pieni di meraviglia. Poi si rese conto di ciò che l'aveva colpito di più. A differenza delle altre città che conosceva, Venezia non aveva mura di cinta. La sua piazza principale si affacciava sull'acqua alla vista di tutti. Certo, le acque infide della laguna, piene di secche e passaggi noti solo ai veneziani, erano una difesa forse più efficace di una cinta muraria. Eppure, quell'immagine di una città aperta, tanto sicura della propria potenza da non avere bisogno di mura, gli causò un'impressione profonda. La voce è quella di Alfredo Colitto, il compagno di viaggio di oggi, e il brano è tratto dal suo ultimo romanzo, Il libro dell'angelo, ambientato proprio a Venezia, una Venezia medievale. Ecco, e praticamente io quando ho fatto in motoscafo, non in barca, non in galea, il tragitto che il mio personaggio avrebbe fatto per entrare a Venezia dalla laguna, e quindi la vede per la prima volta, mi sono chiesto che cosa l'avrebbe potuto impressionare di più. Naturalmente c'era il Palazzo Ducale, anche se allora era molto diverso da adesso, perché quel loggiato che abbiamo visto in tante cartoline viene un secolo dopo l'epoca del mio romanzo, o anche la laguna, le due colonne di San Marco e Sant'Odano, che erano altissime per l'epoca. Però ho pensato forse un bolognese del 1300 che va in viaggio a Venezia, abituato a vedere città e villaggi fortificati, sarebbe stato colpito soprattutto dall'assenza di mura, perché le mura erano proprio un punto fondamentale. E già, le mura Venezia non ne ha. Ma vediamo con Alfredo cosa rimane oggi di quella Venezia. E la Venezia medievale era molto diversa da quella di adesso, anche la Venezia storica, il centro storico, perché la Venezia che noi conosciamo è soprattutto cinquecentesca. Quindi quando a Venezia ha avuto proprio questo massimo della sua potenza, tutti hanno cominciato a costruire palazzi in pietra, a pavimentare le calli, eccetera. Prima non era così. Venezia era nel Medioevo, all'epoca di questo romanzo, era prevalentemente in legno, quindi era una città tutta di legno, con qualche palazzo in pietra, soprattutto gli edifici nobiliari, la Basilica di San Marco ovviamente. Quindi immaginarsela per ricostruirla era abbastanza divertente, diciamo così, no? C'erano molti più canali di adesso, si usava pochissimo il cavallo si userà poi nei secoli successivi, nel 600 eccetera, perché si pavimentano più calli, ma all'epoca si usava soprattutto nella zona intorno a Piazza San Marco e poco altro, più come esibizione di potere o per altri usi. Venezia oggi e Venezia nel Medioevo. Quanta acqua è passata sotto i ponti? Nessuna espressione poteva essere più azzeccata? Però c'erano moltissimi più canali di adesso, E ora di questi canali interrati resta nella Venezia attuale resta il nome nel nome delle cali, cioè Rio Teà la Maddalena, Rio Teà San Leonardo, eccetera. Rio Teà vuol dire canale interrato. E comunque questa situazione, questa dei canali è andata avanti molto a lungo, perché la maggior parte degli interramenti sono stati fatti nel XIX secolo. Quindi dal Medioevo al Settecento Venezia è sempre stata questa città ricca di canali e con poche strade, insomma, che poi non si chiamano strade naturalmente, si chiamano calli e fondamenta, che tra l'altro era una definizione che io non avevo percepito, pur essendo stato a Venezia da turista già qualche volta, insomma, prima di questo romanzo. Per me le strade a Venezia erano tutte calli, no? In realtà la calle è la tipica strada di terra, cioè quella che corre fra due file di edifici. Quando una strada corre al lato di un rio, di un canale, si chiama fondamenta. Il cui plurale è fondamente in veneziano, quindi è proprio una cosa tipica, insomma, della città. Beh, anche per me le strade erano solo calli. Bene a sapersi che ci sono anche le fondamenta. E che dire delle piazze? Tutti sanno che a Venezia le piazze sono solo due, anzi una. Cioè Piazza San Marco e la piazzetta accanto. Tutti gli altri sono campi e campielli. Però quello che anche molti veneziani ho scoperto che non sanno, loro pensano, molti sono convinti che il termine campo per indicare una piazza sia tipico della lingua veneziana. In realtà non è così. Nel Medioevo i campi, cioè questo nome per indicare una piazza, era diffusissimo in tutta Italia. Infatti ne restano ancora Campo dei Fiori a Roma, no? Piazza del Campo a Siena, perché le piazze non erano pavimentate ed erano effettivamente dei campi. Ci pascolavano i maiali, a volte erano le più piccole a Venezia erano coltivate a orto, perché lo spazio poi era prezioso, no? Quindi mentre le calli e le fondamenta sono un particolare proprio di anche così, cioè, come terminologia di Venezia, il campo, l'unica particolarità è che dopo nel resto d'Italia è scomparso questo termine, è stato sostituito dappertutto con il termine piazza. E invece a Venezia è rimasto, questo è il punto. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo, come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere, non si può più. Com'è triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Com'è triste Venezia, soltanto un anno dopo. Com'è triste Venezia, se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Com'è triste Venezia, di sera la laguna, se si cerca una mano che non si trova più. Si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio gabbiano in volo, che un giorno salutaste due punti neri al suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non si ama più. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Venezia con Alfredo Coritto. Quando mi hanno consigliato Alfredo Coritto come compagno di viaggio, l'hanno definito una carezza d'uomo. Ebbene, posso solo confermare che la sensazione è proprio quella. I suoi racconti sulla Venezia di oggi e su quella medioevale scivolano sulla pelle come seta. Riprendo un attimo il discorso. Mi ha parlato già di così tante cose, della differenza tra calli e fondamente, tra campi e piazze. Ma una cosa mi è suonata strana. Venezia era tutta di legno. Com'è possibile? Sì, era una città principalmente di legno, perché è costruita in un modo avanzatissimo per l'epoca, no? Cioè, c'è una base di pali di legno infilati nel fondo della laguna, coperti di terra e pietre, sopra i quali venivano costruiti gli edifici, e all'inizio, poi quando non è nel V-VI secolo, insomma, che non è ancora una città all'apice della potenza, chiaramente, insomma, non c'erano, anche se c'erano i nobili, c'erano i patrizi, eccetera, non c'era questa disponibilità, perché tutto a Venezia era carissimo anche allora, perché il legname, gli alberi non crescevano subito, no? Dopo sì, dopo sono stati piantati su questa base, però bisognava importare il legname da costruzione dalla terraferma, quindi e le pietre è tutto molto più complicato. Soltanto quando appunto Venezia è diventata ricchissima e potentissima si è potuta permettere questo praticamente di far scomparire le case in legno. Per uno scrittore, il lavoro di ricostruzione di un luogo dove ambientare un romanzo avviene non solo attraverso i libri, i documenti, i dipinti dell'epoca, ma anche e soprattutto attraverso la capacità di immedesimarsi nei propri personaggi. Personaggi che camminano per certe strade, che abitano certe case, insomma, è un lavoro di fine architettura, di paesaggio e di anime. E poi, una volta immaginata la piazza, chiaramente la popolazione. E questo è anche stato molto interessante, perché il colpo d'occhio di un personaggio che arriva a Venezia, nel caso del romanzo si prepara lì un'esecuzione e quindi è particolarmente agitata. Però, essendo il centro della città, il cuore, insomma, dove sorgeva sia la chiesa principale, sia il palazzo ducale, sia c'erano molti uffici pubblici, eccetera, era veramente un tripudio di colori, di odori, di suoni, perché c'erano bancarelle, negozi, più o meno come adesso, solo che non vendevano artigianato, probabilmente. C'erano bancarelle, negozi, c'erano i mescitori di vino che stavano all'ombra del campanile di San Marco, e per tenere in fresco il vino si spostavano secondo il girare del sole, no? E da lì viene l'abitudine a Venezia di chiamare ombra un bicchiere di vino. Ecco, queste sono le cose che mi piacciono del partire in buona compagnia anche per una meta così conosciuta come Venezia. Quella dell'ombra di vino me la spendo alla prossima cena. E vabbè, adesso diciamo di Piazza San Marco si potrebbe parlare all'infinito. Voglio parlare solo di un posto, perché così, per sdebitarmi, che è la Biblioteca Marciana. La Biblioteca Marciana mi è particolarmente cara all'interno di questa città che amo particolarmente, perché il libro dell'Angelo, questo mio romanzo, è stato scritto in parte lì. E quindi ho passato veramente dei pomeriggi meravigliosi, un posto bellissimo, luminoso, con gente competente che ti aiuta a fare le ricerche, che non è scontato. E non solo, ma poi nelle pause caffè mi bastava uscire, perché la biblioteca Marciana in Piazza San Marco, uscire sotto il portico e ero sul set del romanzo, quindi potevo ricalcolare tutte le scene che avevo scritto per, secondo le distanze, gli spostamenti dei personaggi. Insomma, è un posto dove ho passato veramente delle giornate splendide. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Ci siamo lasciati in Piazza San Marco con Alfredo, e più precisamente nella Biblioteca Marciana, un luogo dove ha passato molto tempo per scrivere il suo romanzo. E una particolarità di questa biblioteca, l'unica che voglio citare, è il fatto che, a differenza di tantissime biblioteche italiane, non si tratta di un ex palazzo nobiliare o di un ex convento adattato a biblioteca, ma fu costruita apposta per essere una biblioteca. Questo è molto tempo fa. Pensa che la prima proposta di istituire una pubblica libreria a Venezia fu fatta niente meno che da Francesco Petrarca nel 300. Poi non riuscì però, e quindi donò i suoi libri ai signori di Padova e da Carrara. Nel 400 ci riprovò il cardinale Bersaglione, donando tutti i suoi codici greci e latini alla Repubblica, a condizione che fossero sistemati in una degna sede. La Repubblica li sistemò in una degna sede, ma che già esistente. Poi nel 500 finalmente iniziò proprio la costruzione di questo palazzo, adibito già dall'inizio a biblioteca, che è di Jacopo Sansovino, che poi crollò mentre lo stava costruendo, crollò il soffitto della sala di lettura, e visto che allora vigeva il concetto di responsabilità, Sansovino si ritrovò in carcere. Alfredo ha avuto tre fortune, a detta sua, nello scrivere questo libro ambientato a Venezia. La prima è che ha un caro amico veneziano. La seconda, che questo amico ha un bed and breakfast. Un conto è avere un amico, però stabilirsi poi qualche settimana a casa di qualcuno, insomma, si rischia un po' di essere, no? A me serviva un po' di tempo, e quindi lui ha un bed and breakfast, è perfetto. E io sarei andato a stare da lui dovunque fosse stata casa sua dentro Venezia, perché non potevo appunto trovare posto migliore. La terza fortuna è che questo bed and breakfast si trova in una delle poche zone di Venezia, appunto intorno all'abbazia della Misericordia, che sono rimaste medievali. Cioè, ci sono diversi palazzi del XIII e XIV secolo, ci sono campi e calli ancora pavimentati con mattoni cotti a spina di pesce, quindi chiaramente era il posto perfetto per me. Tanto perfetto che poi alcuni dei personaggi, c'è un alchimista araba nel romanzo, che si chiama Adia Bintaba, che abita proprio nella mia stanza, ecco. Sia per comodità narrativa, perché bastava uscire in terrazza, insomma, ma anche perché l'edificio è dell'epoca, è un palazzo inglobato in un convento francescano. E poi la zona della Misericordia è nel Medioevo era particolarmente importante, perché c'era la Sacca della Misericordia, che è un porticciolo importante per il collegamento con la terraferma, con le barche che arrivavano cariche di legname da costruzione dalle foci del Brenta, e anche cariche di acqua, perché Venezia è in mezzo all'acqua, ma l'acqua potabile non c'era, quindi arrivavano questi burchi a due alberi carichi di acqua di fiume, e poi veniva rivenduta e portata in giro da delle donne che si chiamavano le bigolanti, che giravano con i secchi e la vendevano casa per casa. Questo anche fin per molto tempo, perché l'acquedotto a Venezia è del XIX secolo, quindi creava problemi. senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento quando poi tua cugina lo vedrà che a Venezia siamo stati anche noi. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Venezia con Alfredo Coritto. Di questo viaggio a Venezia mi rimarrà per sempre l'immagine dei venditori di vino nel Medioevo in Piazza San Marco che si spostavano col banchetto durante la giornata per godere dell'ombra del campanile, tenendo così in fresco la merce. Da qui il detto veneto, un'ombra di vino. Ma Venezia è anche molto altro, insieme a Alfredo Colitto, che per scrivere il suo romanzo si è stabilito da un amico, fortuna vuole, nella zona della misericordia. Poi c'è anche un lato godeccio, possiamo dire, perché la fondamenta della misericordia è piena di locali. Ci sono posti molto belli, non troppo turistici. A Venezia quasi non esistono i posti non turistici, quindi... è molto difficile consigliare il posticino sconosciuto, non è vero, insomma, no, è tutto basato sul turismo. Però ci sono dei posti abbastanza meno turistici che altrove, ecco, dove si possono mangiare specialità tipiche di Venezia, cucina etnica, poi si può sentire la musica, insomma, è un posto veramente, tutta quella zona lì l'ho apprezzata, standoci un po', l'ho apprezzata veramente parecchio. Poi vicino c'è il ghetto ebraico con le sue sette sinagoghe, a pochi passi ci arriva via terra senza prendere nessun vaporetto, nessuna cosa, la Cador, la chiesa della Madonna dell'Orto. Sono veramente stato contento di abitare lì. E se si comincia a parlare di cibo, sono tutta orecchi. Alfredo, per introdurre alcuni dei piatti della tradizione veneziana, mi legge un altro brano del suo libro. Scesero i tre gradini che conducevano all'interno e si trovarono in una sala torrida in mattoni intonacati con tre fornaci, di cui la più grande, detta caldara, serviva alla fusione delle materie prime, e le altre due, più piccole, comunicanti tra loro, erano usate per preparare la fritta, cioè il vetro grezzo. Ma in quel momento la caldara serviva a tutt'altro scopo, a giudicare dall'odore appetitoso che aleggiava nell'aria. Quando gli operai a torso nudo si voltarono verso di loro, videro sul piano in pietra refrattaria delle anguille avvolte a spirale sopra un letto di foglie d'alloro. Un ragazzo stava cospargendole di una misura di acqua e aceto che prendeva da un orcio con un mestolo di legno. «Da questa parte, per favore», disse il mastro vetaio con un sorriso stanco. «È stata una lunga giornata, lasciamogli godere la cena in pace». «Ma certo», convenne Mondino, che aveva già avvertito un brondolio allo stomaco. «Meglio allontanarsi da questo profumino invitante». L'uomo si voltò a metà. «Il bisato sull'ara è un piatto povero ma gustoso», disse con orgoglio. «Per prepararlo non serve altro che la fornace, l'anguilla e l'acqua della laguna». «Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una. E sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere. Lascia che si nascondano se non le vuoi vedere». Anguille e foglie di alloro su pietra refrattaria. Cominciamo bene? Nei miei romanzi devo dire che si mangia poco. Nel senso che sono romanzi anche un po' d'azione, quindi i personaggi sono sempre impegnati a scappare, a affrontare i nemici, a risolvere un problema, eccetera. Però nessuna storia narrativa sarebbe verosimile senza una parte dedicata al cibo. Quindi ho fatto una ricerca anche in questo senso e naturalmente mi sono anche proprio premurato di assaggiare tutti i piatti di cui parlo, quindi c'è stato un livello di godimento particolare nella scrittura di questo romanzo che in altri c'è stato di meno, anche perché molti piatti di origine medievale si possono mangiare già ancora adesso a Venezia. Il bisato sull'ara è uno di questi. Bisato in veneziano vuol dire anguilla e si chiama sull'ara perché l'ara era la pietra refrattaria sulla quale si cuoceva il vetro grezzo e si dice, insomma la leggenda dice che fosse un piatto tipico dei vetrai perché si poteva preparare a fine giornata quando la fornace era ancora calda e l'ingrediente principale, cioè l'anguilla, si poteva pescare fuori dalla porta, quindi veramente costava poco ed era anche rapido. Adesso si mangia ancora nei ristoranti, non nelle vetrerie naturalmente, ma e con alcune variazioni che lo rendono magari meno povero e più appetitoso, però è un piatto che si può ancora gustare, diciamo, nelle osterie di Venezia. E allora la prossima volta che si va a Venezia, bisato. Bella questa relazione fra cosa mangiavano nel Medioevo e cosa si mangia ora. Certo, per la polenta Eusei, mi dice Alfredo, si deve aspettare la scoperta dell'America per l'importazione del mais. Ma sinceramente ci bastano le prelibatezze che si cucinavano anche con le semplici cose reperite in laguna. Poi la cucina veneziana si distingueva anche per alcune verdure che venivano coltivate sulle isole della laguna. Ci sono ancora adesso, io non lo so pronunciare bene, ci sono le castraue, che sono i carciofini dell'isola di Sant'Erasmo, i primi carciofini tagliati all'inizio della primavera, che sono buonissimi, i bruscandoli, che sono i getti giovani del lupolo con i quali si fa un ottimo risotto. Poi ci sono anche tutti i piatti più noti, no? Ci sono il fegato alla veneziana, che tutti conoscono, le sarde in saor. Le sarde in saor sono un piatto che deriva dalla cucina turca di Costantinopoli, insomma, la cucina turca, adattato un po' al gusto dei veneziani, ed erano molto usate nel Medioevo perché erano un classico cibo da mar, cioè siccome erano queste sarde che mescolavano l'uva passa, i pinoli, la cipolla, tutto insieme, poi però adesso si mangiano così, prima erano pressate, se ne faceva una specie di torta che poi si teneva per molti giorni e si mangiava insieme ai bussolai, che sono dei biscotti secchi, delle gallette che si trovano ancora adesso, ma che esistevano già nel Medioevo. Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla. D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva e una cronaca alla radio dice che è una punta attacca, verticalizzando l'area di rigore. Ragazzi, non giocate troppo spesso accanto agli ospedali. Socrate parlava spesso delle gioie dell'amore e nel petto degli alunni si affacciava quasi il cuore, tanto che gli offrivano anche il corpo. Fuochi di Ferragosto e gli anni dell'adolescenza pieni di battesimi e comunioni in sacrestia. Giocava con gli amici a carte, per le feste si indossavano cravatte, per questioni estetiche e sociali. Le donne si sceglievano un marito per corrispondenza. L'etica è una vittima incosciente della storia. Ieri ho visto due che si tenevano abbracciati in un cinemino di periferia. E penso come cambia in fretta la morale. Un tempo si uccidevano i cristiani, poi questi ultimi con la scusa delle streghe ammazzavano i pagani. Dell'avvenire splenda ancora sulla terra, facciamo un po' di largo con un'altra guerra. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Venezia con Alfredo Coritto. Nei romanzi di Alfredo Colitto si mangia poco, così mi ha detto lui. Meno male che nell'ultimo Il libro dell'angelo si assaggino delle prelibatezze medioevali che si trovano ancora sulle tavole veneziane oggi, come il bisato, anguilla cotta su pietra refrattaria, cucinata a fine giornata nelle fornaci del vetro di Murano. Ma ecco un altro consiglio da buon gustaio. Un piatto, ecco, una cosa che mi sento di consigliare, che non è proprio la tipica cosa che si trova dappertutto, è il baccalà mantecato, che è una specie di crema salata praticamente, dove si mescola baccalà, l'oro, limone e varie altre cose, e si sparata sui toast per accompagnare un'ombra di vino, è veramente la cosa sua. Il baccalà, dice la leggenda, ma leggenda fino a un certo punto, insomma, sembra abbastanza provata, che fu portato sulle nostre tavole proprio da un veneziano, da un mercante, Querini, Matteo Querini credo si chiamasse, che fece naufragio sulle isole Lofoten al lago del Circo Polare Artico, fu tratto in salvo su un'isola e notò che gli abitanti mangiavano questo pesce salato o seccato al sole, che chiamavano stockfish, pesce bastone, da cui poi viene il nostro stoccafisso. Siccome da buon veneziano Querini era interessato a tutti i cibi conservati, ne portò un carico a Venezia. Poi ci volle un po' prima che i veneziani più raffinati apprezzassero, diciamo, le virtù del baccalà, ma insomma poi alla fine prese piede e ancora adesso appunto è un piatto abbastanza caratteristico. e vada per il baccalà, sempre accompagnato da un'ombra di buon vino, ovviamente. Per tornare a Murano, Murano deve la sua fama agli incendi che funestavano Venezia, perché dopo che appunto abbiamo detto una Venezia prevalentemente in legno, con tante fornaci di vetraia attive già prima del 1000, perché veramente l'industria vetraria veneziana era già famosa, no? Nell'alto medioevo, scoppiavano incendi continuamente ed erano anche se c'era abbondanza d'acqua per spegnerli, si comunicavano facilmente, insomma anche gli edifici storici, lo stesso Palazzo Ducale, l'Arsenale, sono bruciati non una volta sola nel corso della storia. E quindi nel 1295 ci fu un decreto che disse: va bene, da adesso tutti i vetrai si trasferiscono sulla stessa isola, così perlomeno in caso di incendio controlliamo i danni. E questo aveva però anche un altro scopo, perché siccome i veneziani erano gelosissimi dell'arte vetraia, tenendoli tutti nello stesso posto li controllavano di più. Beh, buona la scusa degli incendi per mandare in esilio i vetrai sull'isola di Murano. I vetrai erano molto tenuti in conto a Venezia, erano credo gli unici artigiani, cioè gli unici non nobili che potessero sposare anche figlie di nobili, non è poco per l'epoca, insomma, quindi vuol dire che erano tenuti in grandissimo conto, ma c'è un prezzo da pagare, non potevano lasciare, dovevano vivere sull'isola e per lasciare Venezia avevano bisogno di un permesso speciale, no, molto complicato. L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi, quando vedi che non si taglia già lo sai, ti potresti innamorare di lui, forse sei già innamorata di lui, cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Poveri vetrai, costretti a rimanere sull'isola di Murano in compagnia della loro abilità. Vabbè. Però gli incendi, a parte gli scherzi, erano davvero un problema a Venezia, pur essendo una città sull'acqua. Fu fatta una legge abbastanza precisa, eh? C'erano delle squadre antincendio, c'era l'obbligo di ogni contrada intervenire nelle contrade vicine dove fosse scoppiato un incendio, c'era un divieto sotto pena di morte di suonare le campane di notte per non confondere, le campane di notte per scopi che non fosse un incendio, no? Per non confondere i fedeli, cioè suonavano le campane di notte vuol dire che c'era un incendio. Vivere a Venezia nel Medioevo non era certo facile. Anche oggi ci sono delle difficoltà. Quella di cui si parla più spesso è certamente l'acqua alta, che, come racconta Alfredo, c'è sempre stata. Eppure, a partire dagli anni 60, qualcosa è cambiato. L'acqua alta, che molti veneziani, soprattutto i più giovani, credono che sia un fenomeno recente, che a me vai, mi hanno detto no, oh, l'acqua alta è cominciata dagli anni 60. Non è vero, cioè la prima menzione di acqua alta è del VI secolo d.C., quindi... c'è questi soprattutto i venti di Scirocco che impediscono il deflusso naturale dell'acqua della laguna e c'è questo fenomeno dell'acqua alta, però hanno ragione anche loro, perché negli anni 60 fu dragato il cosiddetto canale dei petroli, quindi il fondo della laguna fu sconvolto per permettere alle petroliere arrivare dentro Venezia e allora l'acqua alta ha cominciato a aumentare, mentre prima succedeva una volta ogni morte di Papa, dopo un po', adesso c'è molto spesso. Alfredo vuole chiudere questa gita a Venezia con un'immagine presa in prestito da un altro autore. L'ultima cosa che, così come notazione, volevo dire su Venezia, che adesso però la voglio, perché l'ho trovata proprio vera, è che Venezia, veramente, come scrive Diego Valeri nella sua guida sentimentale di Venezia, è una città che cambia con la luce. Cioè, io l'avevo letta questa cosa, ma non l'avevo, cioè, solo un'immagine poetica. Ma è vero che passando a distanza di un'ora sullo stesso ponte sembra un ponte diverso, perché come tu la vedi alle 11 del mattino non è la stessa cosa alle 3 del pomeriggio. Veramente l'angolo visuale cambia l'atmosfera. Venezia è una città di atmosferi, con il sole, con la nebbia, è veramente diversa. Io ci sono stato in una primavera nebbiosa, che si riflette molto nel mio romanzo, questa nebbia, pioggia, eccetera, ed è completamente diversa da come è col sole. E quindi è una città di cui è difficile stancarsi, perché anche i posti che hai visto mille volte diventano diversi ogni volta che ci passi. E io lo saluto e lo ringrazio con le parole di Nietzsche. Se dovessi cercare una parola che sostituisce musica, potrei pensare soltanto a Venezia. Ora Alfredo Colitto è in libreria con Il libro dell'angelo, edito da PM.